Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. La security di Giuliano Tavaroli non fu una scheggia impazzita. Quei dossier, migliaia di dossier su dipendenti, politici, imprenditori e pure calciatori, dossier pagati 34 milioni, non servivano agli imputati. Vi ricordate l'inchiesta sui dossier Telecom? 4 anni dopo gli arresti di manager, investigatori privati e 007 accusati di aver messo in piedi una centrale di spionaggio degna dei servizi segreti, come fu scritto nelle prime ordinanze, ora il giudice ribalta l'impostazione della procura, dispone nuove indagini e mette i primi punti fermi. Impiega più di mezz'ora il GUP Mariolina Panasiti a leggere in una affollata aula il suo lungo dispositivo tra patteggiamenti, proscioglimenti e rinvii a giudizio. Il segreto di Stato salva per la seconda volta dopo il caso Abu Omar il numero 2 del Sismi Marco Mancini, che per 23 episodi invece viene prosciolto nel merito per non aver commesso il fatto. Assolto anche il commercialista Marcello Gualtieri. Per tutti invece cade l'accusa di appropriazione indebita. Non c'è reato, insomma, se si opera nell'interesse aziendale, come già altre sentenze in passato hanno stabilito. Anche per questo, insieme alla prescrizione che su molte vicende ha già allungato la sua ombra, si riducono le pene nei 18 patteggiamenti già concordati. 4 anni e 2 mesi per l'uomo chiave dell'indagine, Giuliano Tavaroli, ex carabiniere del Rosso, diventato domino su delle security, Telecom e Pirelli. 3 anni invece per Fabio Ghioni, il capo di quel Tiger Team, accusato delle intrusioni informatiche in decine di PC del Baco della RCS e di aver succhiato in Brasile l'intero archivio ad un agente della Kroll, la più grande multinazionale delle investigazioni private. Patteggiano, pagando un conto totale di 7 milioni tra sanzioni e risarcimenti, le due società Telecom e Pirelli, imputate per la legge 231 sulla responsabilità amministrativa delle imprese. Per gli altri 12 imputati, invece, che non hanno scelto riti alternativi, il processo inizierà il 22 settembre in Corte d'Assise. Tra loro l'ex agente SISDE Marco Bernardini, la prima gola profonda dell'indagine, l'ex capo della security in Brasile Angelo Iannone, il giornalista Guglielmo Sasinini, nel cui contratto con la Telecom era scritto nero su bianco che aveva il compito di cercare informazioni su fattori di rischio non convenzionali, e poi soprattutto Emanuele Cipriani, l'uomo dei dossier, l'investigatore privato fiorentino che con la sua polis distinto ha per anni lavorato con l'amico fraterno Tavaroli. In aula ha ascoltato le parole del giudice stringendo un Vangelo. Insieme a tutto questo, il giudice ha ordinato anche il rinvio al procuratore capo degli atti acquisiti durante l'incidente probatorio e l'udienza preliminare. Per quanto di eventuale competenza, udienza pronta. Per quanto di eventuale competenza, dice il giudice Mariolina Panasiti, tra gli atti anche i verbali di Marco Tronchetti Provera, ex numero 1 della Telecom, ora alla guida di Pirelli, insieme a quelli di altri 7 testimoni, Lambiase, Casale, Rosati, Pecoraro, Cerreta, Di Geronimo. Spetterà al procuratore decidere a chi affidare il supplemento d'indagine, che avrà però ben poca vita, visto che in base ai primi calcoli la prescrizione incomberà già a dicembre. Alcuni di questi nomi sono stati convocati in aula dal giudice su richiesta di uno degli imputati centrali, Emanuele Cipriani, l'uomo dei dossier. Per lui inizierà il processo. I suoi difensori, Vinicio Nardo e Francesco Caroleo Grimaldi, avevano chiesto il proscioglimento. Ho sicuramente dei reati ammessi da uomo libero e successivamente, reati connessi all'attività operativa e lavorativa. Non è che questo giustifichi quello che io abbia fatto, però li ho sempre riconosciuti. Non ho mai riconosciuto l'appropriazione, perché ho sempre detto che io ho lavorato e non mi sono mai permesso di appropriarmi di niente e di nessuno, tanto più in questa occasione. Lei dice: io ho sempre ammesso questi reati per i quali vado a processo. Che vuol dire? Che ancor prima dell'ordinanza di custodia cautelare presentatomi liberamente, ho ammesso i reati per cui a settembre comincerà il giudizio di primo grado, ma ho sempre rifiutato il reato dell'appropriazione, e credo che anche determinati aspetti dell'associazione a delinquere sono stati ben rivisti. Poi leggeremo bene il dispositivo nel dettaglio. E leggeremo anche quando ci saranno le motivazioni. Veniamo dunque all'appropriazione indebita, a questo punto centrale di questo dispositivo del giudice che in qualche modo cambia anche l'impostazione stessa dell'inchiesta che fin qui era stata svolta. Vuol dire che non siete stati voi, tutti i vari imputati, ad aver drenato soldi dalle società. È stato invertito l'ordine d'accusa e se io non ho fatto l'appropriazione con me tutte le altre persone, è sottinteso che c'è stata una commessa, è stato fatto un lavoro e qualcuno ovviamente ne ha beneficiato. Se non c'è l'appropriazione, queste pratiche sono state fatte per qualcuno, nell'interesse aziendale. Vuol dire che bisogna rivedere l'impostazione proprio dell'inchiesta stessa e questo chiaramente anche nel prossimo processo che inizierà a settembre vedremo come sarà giudicato e soprattutto poi ancora vedremo se ci saranno delle novità da parte della procura a cui la dottoressa Panazziti, il giudice, ha rinviato gli atti. Beh, questa la dice lunga, eh? Questo è stato quanto lei anche in sede di udienza preliminare ha più volte sollecitato. Rifiutavo assolutamente il fatto di essere uno sconosciuto in due multinazionali dove dal 97 al 2004, anno in cui ho cessato ogni attività avendo ricevuto il primo avviso di garanzia, avevo fornito migliaia di informazioni e preciso legali e non, i dossier che sono oggetto di sequestro e di distruzione secondo il decreto legge contengono informazioni sicuramente strategiche, informazioni illegali e non illegali. E ho detto nelle mie memorie non è possibile che io appaia come uno sconosciuto e non è possibile che certe pratiche di interesse personale di un determinato top manager passino come pratiche di appropriazione. L'oggetto stesso della pratica lo dimostra. Ne ricorderemo alcuni. A lei sono stati sequestrati all'inizio dell'inchiesta 14 milioni. Quanto invece lei ha calcolato di aver fatturato per la security diretta da Giuliano Tavaroli, quindi per la Telecom e la Pirelli? Non sono in grado di dirle il fatturato per le due aziende specifiche. Il fatturato totale delle aziende che a me si riferivano per determinate pratiche, che sono quelle oggetto di sequestro, superava i 20 milioni. Il fatturato, ma non c'era solo Pirelli e Telecom. Quali sono le altre? Io non lavoravo solo per Pirelli e Telecom, non è emerso più di tanto nel processo, ma avevo anche altri clienti. Le sue operazioni fatte per questi altri clienti sono state, diciamo, citate nelle prime ordinanze, ma nello specifico non le sono state mai contestate, se non mi sbaglio. Non sono mai state contestate le operazioni sugli altri clienti. Però immagino che le modalità di lavoro siano analoghe. Come le ho detto, in qualche caso sì, in qualche caso no. Non è che vanno prese le pratiche oggetto di sequestro come tutte tassativamente illegali. Ci sono pratiche legali e pratiche illegali. E veniamo proprio anche alla natura per ricordare di che cosa si è parlato in questi anni di questa delicata e difficile inchiesta cominciata con i primi arresti nel 2006. Pratiche, dossier, operazioni. Punto centrale è stato un DVD. Qual era la password di questo DVD? Non me la ricordo. Non ce la può dire? È stato un argomento molto dibattuto. Erano le pratiche del cosiddetto archivio Z. Che cosa c'era all'interno? Sicuramente delle pratiche importanti per le due multinazionali che abbracciavano tutta una serie di nominativi clienti, fornitori, singoli personaggi e dipendenti, dirigenti, aspiranti dipendenti. Come le veniva commissionata una pratica in media? Come è stato detto dall'avvocato Caroleo Grimaldi e dall'avvocato Nardo, venivano inoltrate fax, richieste, mail con un nominativo e sul quale venivano richiesti determinati accertamenti, alcuni legali, alcuni illegali, in Italia come nel mondo. Il supporto di quello che io le sto dicendo, oltre alla mia risposta, ovvero alla pratica, sono tutte documentazioni agli atti del DVD, cioè la richiesta, l'origine, il mandato, se vogliamo chiamarlo, ecco. Quindi a lei arrivava un fax con Una mail. Le aziende che hanno pensato bene di bruciare i documenti che io invece ho prodotto dando la password del DVD, ce lo ricordiamo. La famosa operazione Pira. Esattamente, sì. Capiamo bene che il signor Cipriani ha dato una password per dimostrare che a fronte di determinati milioni di fatturato c'erano migliaia di pratiche che qualcuno gli aveva commissionato. Dall'altra parte hanno chiesto a qualcuno di bruciare in una cava fuori Milano le pratiche che avevano. Le operazioni che lei aveva fatto sono state sempre fatturate? Sempre, tutte. Infatti io ho prodotto nell'udienza preliminare, forse lei l'ha anche visto, 3 faldoni, ho prodotto le fatture una per una, accorpandole per oggetto d'indagine, vedi interesse personale del management, vedi clienti, vedi fornitori, vedi dipendenti, vedi dirigenti. Anno per anno ho ricostruito tutto il fatturato e ho dimostrato con una memoria in cui ho detto queste fatture non possono passare inosservate, che ogni fattura ha un centro di costo, ha un nome in codice, un codice alfanumerico e ogni fattura, sottolineo ogni fattura, da 1000 euro a 50.000 euro porta a una pratica. Non c'è una pratica senza una fattura. È stato l'uomo dei dossier Telecom, colui che ha materialmente raccolto la maggior parte delle informazioni su dipendenti, politici, manager e calciatori. È stato l'imputato che nell'udienza preliminare più di tutti ha alzato la voce, perché non posso essere solo io il capro espiatorio, ha scritto in una memoria. Emanuele Cipriani, investigatore privato, ha chiesto ed ottenuto che fosse ascoltato in aula anche il presidente della Pirelli, Marco Tronchetti Provera, già interrogato durante le indagini ma mai indagato. Scopo della sua richiesta era dimostrare che le attività investigative, ha detto a verbale, erano il frutto di indicazioni provenienti da organi apicali, ma quel giorno stesso Tronchetti ha annunciato azioni legali in sede civile e penale contro Cipriani, rinviato a giudizio, ma senza l'appropriazione indebita, come è stato già detto nella prima parte della rubrica. Sto ancora aspettando, dottoressa. La replica che c'è stata anche dai portavoce del presidente Tronchetti è stata anche che lei, suo input era quello di rientrare in possesso dei soldi che le sono stati sequestrati. Partendo dal presupposto che io non avevo rubato, io mi sono mosso perché non mi venisse riconosciuto un reato infamante che è l'appropriazione. Di lì ne consegue quello che verrà. Quindi un eventuale, diciamo, processo anche per calunnia non la spaventa? Se c'è, la vedremo. Io ancora non ho ricevuto nulla. È già 2 volte che il dottor Tronchetti dice che fa azioni legali nei miei riguardi, ma io non mi è ancora pervenuto nulla. Ci sono state pratiche e dossier sui dipendenti o aspiranti tali delle società, ci sono state pratiche con nomi di carattere internazionale, ci sono state veramente pratiche con ogni nome e di ogni genere. Ma quando lei dice anche fatti in modo illegale, che tipo erano? Partiamo da quelle tecnicamente più note, che sono le operazioni filtro e scanning, nome in codice, delle operazioni in cui venivano analizzati gli aspiranti dipendenti rispettivamente, filtro per Pirelli, scanning per Telecom. Quelle sono operazioni illegali, però i testimoni convocati in aula, da me chiamati, hanno poi a denti stretti ammesso determinate cose che credo abbiano maturato nel giudice Panasiti l'intento di mandare gli atti al procuratore capo. Sì, che le aziende non mi venissero a dire che non sapevano cosa facevano con l'operazione filtro e scanning, perché come ho detto in aula e lo ripeto qua, a me arrivavano le liste dalla direzione security che le riceveva, e non Tavaroli, altra persona che è venuta in aula chiamato, e le riceveva dalla direzione del personale, migliaia di nominativi. Questo è un punto centrale di questa inchiesta, perché appunto attiene a quanto e se le modalità con cui certe informazioni venivano acquisite erano note agli altri all'esterno della security di Tavaroli e di quanti con lui strettamente lavoravano. Su questo vorrei chiederle appunto 2 cose. La prima è rigirarle quella che è l'obiezione che viene fatta dall'entourage delle società sul fatto che lei parla per cose che gli sarebbero state riferite e non per conoscenze dirette. A lei le informazioni sulle richieste delle varie società da chi gli arrivavano? Credo che la risposta sia nei documenti che sono di supporto alle risposte che davo nel DVD, ovvero l'ingresso dei nominativi, nome, cognome, luogo, con tanto di mail che proveniva dall'azienda e non dalla direzione security, vedi altre direzioni, e le mie relative risposte. In aula i testi hanno confermato questo. Rileggendo anche i tanti verbali che sono stati depositati in questi 4 anni di indagine, ad esempio anche quelli di Tavaroli che anche lei sicuramente avrà letto, non è mai stato detto esplicitamente che ai vertici si riferisse anche delle modalità con cui certe informazioni venivano acquisite. Uno dei testi che ha trattato le operazioni filtro e scanning in prima persona in udienza ha chiuso un interrogatorio di ore dicendo: beh, in effetti abbiamo fatto qualche leggerezza, lo trova in atti. Definendo una leggerezza, ricordiamo che l'operazione filtro scanning, gli accertamenti sulla moralità ed altro, forse abbiamo commesso delle leggerezze. Chi parla è un dirigente d'azienda, non della security. Quelle erano le due operazioni fatte sugli aspiranti dipendenti, giusto? Sì. Lei in aula, adesso per aggiungere anche un elemento diciamo più leggero, ha riferito anche di quando veniva coinvolto ad esempio per trovare dei posti barca. Fa parte della facility, cioè lei su un determinato top manager fornisce tutela, scorta, oltre che intelligence, fornisce la facility, ovvero qualsiasi attività finalizzata finché il personaggio veicoli senza rischi, senza intoppi, massima concretezza e velocità. In questo rientrano, o quantomeno sono rientrati anche, e ci sono le fatture, la possibilità di recuperare in piena stagione un posto barca a Saint-Tropez. Nel caso specifico intestate a? Sempre aziende Pirelli o Telecom. Su un punto che è stato anch'esso chiave di questa ultima decisione del giudice, quello che riguarda i rapporti con Marco Mancini, funzionario del SISMI. Lei dice: io ho sempre avuto attività istituzionali per il SISMI. Che sono le attività istituzionali per il SISMI? L'argomento dottor Marco Mancini io ritengo di non poter rispondere a nulla, in quanto questi rapporti sono vincolato, ritengo di essere vincolato al segreto di Stato. Però all'inizio nei suoi primi verbali qualcosa aveva detto anche su questo? Qualcosa, successivamente poi assolutamente blindato dalla disposizione del segreto di Stato, al quale ritengo di essere vincolato e comunque non è opportuno parlarne proprio per la lettera del signor Presidente del Consiglio. Anche se su questo non si può entrare nel merito, perché appunto è intervenuto il segreto di Stato che ha stabilito, tra l'altro, che ha coperto tra l'altro anche i rapporti tra la security della Telecom e il SISMI, però forse lei ci può ricordare come a monte siano nati i rapporti tra lei, Tavaroli e Mancini. È cosa ormai assodata che della lunga amicizia esistente tra voi. Lei ha molto presente, come ce l'ho io, la lettera del Presidente del Consiglio che specifica l'interna corporis sui nominativi di Cipriani, Tavaroli e Mancini. Il rapporto personale è innegabile, risale ai tempi dell'infanzia, ma lì ci fermiamo. È stato però il suo rapporto anche personale con Tavaroli a creare questo canale con la security Telecom e Pirelli? No. È lì si sbaglia. È stato prodotto in aula fatture dell'84 e dell'85, potrei sbagliarmi, ma sono depositate in atti, in cui il sottoscritto lavorava già per Pirelli quando il signor Tavaroli o era ancora nell'arma o lavorava in una prima azienda privata post arma, e io ero già fornitore di Pirelli. Chiudo dicendole che in Telecom, gestione ante dottor Tronchetti, ero già fornitore in Telecom. Questo per rispondere ovviamente alla sua cortese domanda, ma ai legali delle due aziende che invece nelle loro arringhe difensive avevano smentito questo, e io l'udienza successiva ho portato le fatture a conforto del mio operato in Pirelli e Telecom ante Tavaroli, ante Tronchetti in Telecom. Cipriani, ma lei il presidente Tronchetti l'ha mai incontrato? L'è stato mai presentato? Direi proprio di sì. Ci può raccontare in quale circostanza? È sufficiente quello che le ho detto, è già un rapporto teso. In questa vicenda a un certo punto c'è stato anche un fatto tragico, che è stata la morte di Adamo Bove. Lei l'aveva conosciuto? Il dottor Bove lo conoscevo bene, in quanto team che dipendeva come direzione security dal dottor Adamo Bove era mio cliente, sicché ovviamente mi relazionavo col dottor Bove come con qualsiasi direttore di security delle aziende per cui lavoravo. A sua volta su questa singola vicenda ci sono state delle altre indagini, ma lei che idea si era fatto il giorno in cui aveva saputo della sua morte? Incredibile. Dottor Bove non era uno sprovveduto, aveva un passato da grande investigatore pubblico, da bravissimo manager privato. Rimango incredulo ai massimi livelli. Ora che fa lei, Cipriani? Con consulenza nel campo della ristorazione. Della polis di Stinto che ne è stato? È una società ormai pressoché avviata alla chiusura e liquidazione. Già da settembre 2004, credo pochi mesi dopo il primo avviso di garanzia, furono restituite le licenze alle autorità. Ricordo male o la sede della sua società era all'interno di un consolato? Io sono stato per 10 anni console onorario di un paese straniero e all'interno della società vi era un'area consolare, un paese dell'Africa centrale. L'ultima cosa che le chiedo è una sua valutazione sul mercato. Lei lo conosce bene il mercato della informazione, ci ha lavorato per tanto tempo e per società di altissimo livello. Il mercato dell'informazione c'è sempre stato, sempre con un'impronta di una certa aggressività, perché sono le informazioni, virgolette, aggressive, quelle che francamente sono più utili per un manager per aiutarlo a prendere delle decisioni per entrare o non entrare in un determinato mercato, per prendere o non prendere determinate decisioni. Nell'aggressività dell'informazione ci sta tutto. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre interviste delle Storiacce, a cominciare dalle altre dedicate a questo tema all'inchiesta Telecom sul sito radio24.it. Ciao, a sabato!